Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E Resto Radio Convento, ci siamo, diretta del sabato sera in compagnia dei ragazzi che vengono da Brescia, Bergamo. Non era difficile come domanda, questa, no, giusto? Perché c'era il tranello, perché poteva sembrare che venivate da Bari, giusto? Sì. Abbiamo l'amico si sposa che è originario di Trani, ma effettivamente, appunto. E come si chiama? Appunto. Nicola, ma noi lo chiamiamo Bari. Perché è barese. Ok. Puoi dirci qualcosa? Barè, a te la parola. È pervenuto? Barè, vai. No, conosco questi ragazzi qua da quando sono nato. Sì. Sono parte della mia infanzia. Ma c'è la voce da bergamasco, però. Sì, sì, condivido con loro la mia vita. La quando sono Non c'è più niente. Parla barese. Che cazzo. Adesso si è capito che è barese. Ma in realtà il vero barese del gruppo ce l'abbiamo, giusto? È lui? Sono io. Ah, no, ma quello che parla è veramente in barese. Sì, ma è bello, ragazzi, che vi spiego la mia storia in poche parole. Io sono devoto a Lino Benfino, però sono siciliano. Abitavo a Bergamo e sono andato a finire a Brescia. Ma un casino unico. Un casino unico, sì, quasi. Esatto. Unico, d'altronde. Esatto. E quindi, un po' hai la stessa capigliatura, tra l'altro, di. Eh sì, Pareto. Wow. Una volta avevo i capelli, adesso. Sono andati. Fantastico. Quindi, Barè, allora, che ne pensi di questa serata? Ma l'ho guardato, che ne pensi? Il meglio deve ancora arrivare. Deve andare a letto. Allora, abbiamo ancora un po', ragazzi. Mi piacerebbe rievocare una scena di un film di Lino Banfi. Allora, voi fate i musicisti? Adesso la capirete. Sì. Io sono la tastiera. Ah, ok. No, ma nella nostra scenetta. Aspetta, però non abbiamo presentato l'altro amico. Come si chiama? Giorgio Massa. Giorgio detto niente. Mi piace. Giorgio detto Giorgione, che arriva da Massa. Allora, Marina di Massa. Giorgione per caratteristiche sessuali? Sì, esatto. C'è una grossa massa. Presentati, Giorgio. Ecco. La massa al microfono vicino, la bocca. La bocca. Lo sai che la bocca va al microfono. Ecco, no, ho il microfono. Cavoli. Ok, ecco. Quindi abbiamo Giorgione da Massa, Nicola De Bari, sì. Ecco, giusto. È conduto da Giampiero da Bergamo. Giampiero da Bergamo, originale, si vede che. No, proprio, sì, preciso, no, uguale. Proprio. Arrivo da Foggia io. Ecco. Un gruppo di bergamaschi doc qua stasera. Doc, allora, Terroni, uno da Foggia, uno da Bari, uno da quattro da Bari. Bellissimo. E poi abbiamo un toscano bergamasco. Ma poi abbiamo bergamaschi doc. Ma domanda alla ragazza che balla fuori, l'avete conosciuta qua? Sì, l'ho conosciuta qua. Lascia perdere, che è meglio, lascia perdere. Mi sembra devota. Abbiamo lo zio Max qua, importante. Quello fuori, non si vede purtroppo, lo zio Max. Ah, lui è lo zio Max. Si vede che è il Max. Sì, si vede. Lui è il fratello dello sposo, Marcello. Marcello, ma che nessuno vede in questo momento, però è il fratello dello sposo. C'è anche Marcello. Ecco, contentissimo Nicola di vedere il fratello, vedo. Sì, va bene, però torniamo alla nostra scenetta, ve lo ricordate? Di Lino Banfi. Allora, voi fate i musicisti nel film e accogliete Lino Banfi che fa il commissario. Ah, ma c'è quella che fa non so dove. Benvenuti, pasti procioni, così belli a capocchioni, e tu che sei un po' free free, e dimmi un po' che c'hai da di. Continua, mi piace, continua. A voi la parola. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario, ti faccio un culo così. Oh, grande Fabio, grande, mi piace. Guarda, Vieni Nandro. Mentre il ragazzo che salta fuori. Simone. Ecco, ma lui è spogliarellista? Sì. Ecco. È bello che non la sentiamo, ma. Di Giorgione, ecco, il Giorgione. Ma Nicola, fammi, raccontami un po', come hai fatto a sedurre la tua futura moglie? Vai Nicola, parla tu, qua al microfono. Ma ti mando. Sedurre, è lei che ha sedotto me. Ma proprio, è lei che ti è venuta a conoscere? Esatto, ha fatto tutto lei? Esatto. Tu eri lì tranquillo? Io soltanto l'ho appoggiato e basta. Ah, perché lui ha appoggiato nel discorso, giustamente. Ah, perché Nicola è uno che usa la tecnica dell'appoggione, sì, la famosa. Esatto. Cioè praticamente si appoggia dietro. Lei ha capito. ha ricevuto da questo mio. Sai qual è il suo soprannome? Rocco Barè. Adesso Barè. Cioè, allora c'eravamo Giorgione, c'è Rocco Barè, cioè praticamente faccia lo sfilatino praticamente da quello che ho capito. Per andare a Bergamo il, o dopo Bergamo, il chilometro rosso l'avete fatto voi praticamente in tre. Cioè, in tre avete fatto il chilometro rosso. Sì, stasera dormono insieme, non tre, non so. Io oggi dormo con lo sposo e sono onorato di questo. Perché Fabio dormi con lo sposo? Sì. Come ti sveglierai domani mattina? A mezzogiorno sicuramente, perché ho mangiato tanto pesce. Mi ingrifo quando mangio pesce, non so come mangio. Quindi se lo sposo rimane incinta, si sa mai. È una cosa stranissima, ragazzi. No, ma io ho comprato la mutanda casta. Non ti preoccupare. Hai comprato la mutanda per la nuotata? Piombata, sì, bellissimo. E domani c'è, si può dire il programma o è una sorpresa? Domani programma. Domani programma, devo andare a comprare gli occhiali da sole che ne ho persi oggi, porca puttana. C'è il vostro amico che è particolarmente attaccato alla. C'è una ragazza che c'ha le pupe attaccate al dietro. Sta facendo il koala dietro la schiena. Stava facendo il koala dietro la schiena di quella. È stranissimo. Possiamo dirlo il nome del vostro amico? Simone Pilenga. Simone. No, beh, Pilli. Detto Pilli questo. Pilli perché? Ah, ok. Lui è ridotto. Dopo due giorgioni abbiamo un Pilli. Già. Abbiamo abbassato il Pilli. Abbiamo abbassato il Pilli, è bellissimo. Quella. Il Pilli abbiamo abbassato. Ecco, chiama. Questa disgraziata veramente. Eh sì. Porca puttana. Nicola, sempre al microfono, mi raccomando. Quindi, guarda dove si è messa. Questa, si mette in tutti i modi, hai visto? In tutte le posizioni, in tutti i mali, Madonna, tutti i modi. Benedetta, zitto, non parlo più. Va bene. Non vi strano, Nicola, dove le hai chiesto di sposarti? Nicola, vai. Bella questa. In Sicilia. Andiamo tutti in Sicilia. Come tutti in Sicilia? Cioè? Io sono testimone. Quindi vi sposate in Sicilia? Esatto. Ma lui gli ha chiesto dove l'hai chiesto te. Ma non gliel'ha chiesto lui, gliel'avrà chiesto lei. Ah, gliel'ha chiesto lei di nuovo? No, gliel'ho chiesto io in Sicilia. Te l'ha chiesto lei in Sicilia. Dov'eri? Sì, perché sa che a lei piaceva la Sicilia, allora, giustamente. Messina, lei è di Messina. Esatto. E che posto eri? Descrivici, raccontaci. Davanti alla chiesa della sua. Racconta, dov'è il posto? Sotto l'Etna? No, esatto, no. Porca puttana, siamo sotto il vulcano, che si è rotta. È rotta lì. Ma è sobrio o per ubriaco? Ma sobrio non sono mai, quindi. ecco, ubriaco, gli hai chiesto di. Ora torna. Eri ubriaco, gli hai chiesto. L'hai tirato fuori il gingillino? Sì, proprio. Come il gingillino? Hai detto, ma l'anello, cosa avete capito? No. Lui ha tirato fuori il suo gingillino. Non ha tirato fuori. Qua sul gingillino, ma il gingillino. No, il suo gingillino lo intende il suo. Il diamante per sua terza gamba. La sua terza gamba. E lui ha tirato fuori il suo gingillino. Mi vuoi sposare? Lui l'ha vista. Sì. Intendeva il diamante per sempre? No. Il suo gingillino. Per fortuna che c'è Fabio che mi traduce. Ok, lei ha ceduto subito, ha detto sì, si è sciolta. Si è sciolta proprio. Ah, dal caldo proprio. È colata, ok. Ha preso, come si dice, la palla al mezzo. Ti ha preso una palla sola al balzo. No, poi ha visto che ne aveva due, allora ha preso tutte e due. Che rifiutava. Bellissimo. 1, 2, 3. Che non vuoi dire a me? Ok, mentre. Okay, a me! Ti stima, sei il numero, sta dicendo che sei il numero uno. Alza un po' lì, ha detto che è il numero uno. Ma il numero uno. Okay. Dimmi, Giorgione, che Giorgione vuole dire. Giorgione, dì la tua. Giorgione vuole approfondire, state attenti, ragazzi. Il gingillo, cosa che hai detto a fare? Gli ho fatto vedere il mio gingillo. Per dirmi di sposare. Qual è il tuo gingillo? Brilla anche a volte. Sì, è brillante. Complimenti. Lo usano come faro al mare. È il primo al mondo che lui ti hanno fatto il suo gingillo. È l'unico che mi vuole sposare. È la punta luminosa. È il primo al mondo. Mi vuoi sposare? E ci ho anche risparmiato anche dei soldi. Fantastico. Bravissimo, Barè. Quindi matrimonio tutti in Sicilia, ragazzi? Yes, tutti in Sicilia. Quando? Che giorno? 26 agosto, tutti in Sicilia, matrimonio giù. Sì, andiamo a prendere un po' di fresco. Bel, sì, un po' di fresco. A Messina, giusto? Sì, sempre. Ah, ok, dopo tutto vai in viaggio di nozze? Sono lì in Sicilia. Ah, stai lì? Vado nelle isole che ci sono lì. Stai lì, cioè, vuoi già il posto fisso? Proprio? Esatto, sì, è come Zelone, c'è il posto fisso questo. Ma ce l'hai con me, te che vengo fuori? Allora, la smetti? Siete richiestissimi. Va bene, ragazzi. Adesso arrivo, stai calma. Esatto. Quella ragazza freme. Sì, allora, partiamo con i saluti. Ciao, Giampi. Vai, vale. Lo sposo. Lo sposo, basta, non saluto. Lo sposo, appunto. Cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto, Bari? Sposo. Ragazzi, guidate piano, state attenti e buona sera. No, io volevo dire a Carlo sposo, hip hip! Urla! Hip hip! Urla! Nessuno che ha detto sì, è già qualcosa, nessuno che ha detto. No, vi dico uno sciogli lingua in siciliano, ma proprio perché è tanto bello. Un ciao motorino, un ciao Luvi Spino, ma ciao Cavasacco come Giacomo Agostino, ma è un anno. L'hai capita? È partita in automatico così. Bellissimo. Dopo questa chicca, provate a casa a ripeterlo. Il primo che riesce a ripeterlo correttamente vivrà una notte di sesso con Fabio. Che culo! Gli è andata bene, pensa che se succedeva con Giorgione. Sarà tua moglie. Ciao ragazzi! Buonanotte, ciao! Sono Sandrino e anch'io.